Перевод отчасти с перерывашкой и перешлёте. Режим работы с 9 до 20 часов. Телефон для связи 8-911-926-41-43. Ancora qua c'è il rumore della ventola dell'amplificatore. chiamata e forse mia figlia che sta usando il fondo, anche io muoio, non ha più quel rumore, mi devo buttare. No, adesso non c'hai più, forse aveva appoggiato la mano sopra qualcosa. Tappa! Ehi, gappa, gappa, faccio questi ghiacci, va bene così, dai. Va bene, lui, ascolta, devo guardarmi, intanto mi vuole pure stasera, non viene nessuno. Io mi devo vestire e preparare perché devo uscire, dai. Cioè, invece c'è un appuntamento con gli amici per la partita del Milan Juventus. Ti abbraccio e ci sentiamo. Ciao! Ciao! E intanto sono qua facendo sempre KK, ti ho sentito prima, 525 KK, va bene, ciao. Sì, ce l'avevo acceso, ma stiamo a Gianni a fare delle prove, ti ha montato l'antenna e quindi le sto volando dei controlli là, doveroso sempre rispondere quando si può. Va bene, ciao, ci sentiamo, ciao. No, poi vorremmo, io chiudo la squelce, guarda, non mi metto nessun problema, tutto silenzio, capito? Via, d'accordo. Q10 avanti, Peppalino. Thank you. Grazie.